Capitolo terzo. Lo stile liturgico. La parola stile può essere innanzitutto intesa in un senso generale. In tal caso, essa indica la particolare caratteristica che ogni strutturazione genuina e significativa, opera d'arte, personalità, costituzione politica, come tale, porta in sé. L'aperto contrassegno del fatto che un elemento determinato della vita ha trovato la sua espressione verace ed esauriente. Ma questa piena manifestazione di sé deve avere tale carattere che l'essere particolare ottenga con essa e in essa anche un significato universale, oltrepassante la sua cerchia limitata. L'essere di ogni individuo include infatti in sé due elementi, uno singolare, peculiare, irriproducibile, l'altro universale che sta in relazione con tutti gli altri individui della sua specie e perciò testimonia nella sua costituzione ontologica dei tratti che sono pure comuni ad altri. Una cosa particolare è tanto più significativa quanto più è originaria e ricca di energia spontanea e quanto più comprensivamente è in grado nello stesso tempo di esprimere l'essenza universale che è propria della sua specie. Quando dunque una personalità, una creazione dell'arte, una forma della vita sociale nel proprio essere e agire, non solo esprimono persuasivamente come esse siano se stesse nella loro irripetibilità, ma insieme in questa loro peculiarità non rappresentino un arbitrario capriccio dell'essere, bensì abbiano relazione con la vita nella sua universalità, allora possiamo dire che esse possiedono dello stile. In questo senso, la liturgia possiede certamente stile, né è necessario spendere molte parole per mostrarlo. Ma la parola può essere presa anche in un senso più ristretto. Perché mai percepiamo più vivamente la presenza dello stile dinanzi a un tempio greco che dinanzi a un duomo gotico? L'intima efficacia delle due creazioni ha la stessa forza di convinzione. Ognuna costituisce l'espressione perfetta di una forma determinata nel senso dello spazio e delle masse. Ognuna rivela la peculiarità di un popolo e offre contemporaneamente una profonda visione dell'anima e in senso assoluto della realtà universale. Eppure noi sentiamo dinanzi al Tempio di Segesta uno stile più vigoroso che dinanzi al Duomo di Colonia oppure alla Cattedrale di Reims. Perché? Per qual motivo alla persona di sensibilità non colta Giotto presenta uno stile più intenso a confronto di Grünewald, certo non meno potente se non più grande? Oppure una statua di re egiziana a confronto delle mirabili figurazioni donatelliane di San Giovanni? La parola stile ha qui un significato particolare, giacché è intesa nel senso che nella figura considerata il singolare passa in seconda linea, lasciando emergere l'universale. Ciò che è contingente, condizionato rispetto al tempo e allo spazio, quanto val solo per certi uomini determinati, per certi esseri particolari, è respinto sul fondo da ciò che è necessario, o almeno è più necessario, da quanto vale per molte epoche, per molti luoghi e persone. L'individuale è così assorbito in notevole misura da ciò che è tipico. In un'opera di tale genere, una complicata situazione spirituale che potrebbe trovare la sua espressione solo in un confuso grido dell'anima oppure in un'azione irripetibile, viene semplificata e ricondotta alle potenze fondamentali dell'anima. Perciò essa si è resa comprensibile a tutti. Quel confuso ribollimento di emozioni è stato ridotto a una forma costante di motivazione psichica. È divenuto così trasparente, può chiarire anche ad altri l'intreccio di cause ed effetti quale appare a ciascuno nella propria vita. Nell'avvenimento storico e singolare viene fatta emergere la significazione permanente e universale della vita. La personalità che si è presentata in un momento unico del tempo e dello spazio assurge a personificazione di caratteristiche comuni alla specie. L'emozione irrequieta e arbitraria nei suoi sviluppi viene disciplinata ed equilibrata. Mentre per l'innanzi essa è relegata totalmente a condizioni date, a un determinato temperamento, ora essa può fino a una certa misura essere rivissuta da ognuno. cose, arredi, utensili vengono spogliati dal loro aspetto casuale, liberati nelle forme essenziali, chiariti nella loro finalità pratica, potenziati nella loro capacità espressiva per determinati sentimenti o pensieri. In una parola, mentre l'una forma d'arte cerca di dare espressione proprio all'individuale, l'altra mira invece a far risaltare ciò che ha un significato universale. La semplice realtà che si presenta sempre particolare è trasfigurata in modo da farne emergere il tipico, vale a dire essa è sublimata nella forma, stilizzata. E noi percepiamo lo stile nello stretto senso della parola, laddove la confusa varietà della vita ha subito tale semplificazione, dove la sua normativa interiore è sottolineata e dove dal particolare è tratta una significazione universale. Certo, una linea non facile a tracciarsi separa lo stile dallo schema. Se la trasvalutazione formale è spinta all'eccesso, se la concezione viene elaborata in base a concetti e regole, anziché scaturire da una necessità interiore, se infine la forma non nasce dalla vivida intuizione ma è escogitata e calcolata, allora si ottiene una figura che è solo generica e perciò vuota e morta. Il vero stile, anche nelle sue forme più severe, conserva la forza suggestiva di un'espressione matura. Solo ciò che è vivente ha stile, il mero cerebralismo, il nudo schema, non ne possiede affatto. La liturgia, almeno nella gran parte dell'ambito suo, possiede stile nel senso stretto. Essa non è l'espressione immediata di un atteggiamento spirituale determinato nei suoi pensieri e detti, e neppure nei suoi movimenti, nelle sue azioni, nei suoi arredi. Si confrontino gli oremus delle messe domenicali con le preghiere di un Anselmo di Canterbury, ovvero di un Newman. Il contegno del sacerdote all'altare con gli involontari movimenti di una persona in preghiera che si credò inosservata. Si paragonino le prescrizioni della Chiesa sull'arredamento dell'altare, sugli oggetti di culto e i paramenti sacri, col modo in cui il popolo adorna le sue chiese oppure si abbiglia per sacre festività. Il canto corale gregoriano con la canzone religiosa del popolo. Nell'ambito della liturgia, la forma religiosa di espressione, si tratti di parole o di gesti, di colori e oggetti, è sempre spogliata, fino a una certa misura, della sua particolarità individuale, intensificata, composta, elevata a una significazione universale. A questo hanno contribuito molte cose, innanzitutto il lungo trascorrere del tempo, che ha sempre meglio smussato, limitato, adeguato alle forme liturgiche. In secondo luogo, deve essere tenuta in conto l'azione fortemente generalizzatrice del pensiero teologico. Infine, pure l'influsso dello spirito greco-latino, la sua specifica propensione allo stile nello stretto senso della parola, ebbe particolare importanza. Se ora si riflette che queste forze creatrici di stile si esplicarono non nell'espressione della vita religiosa di un singolo individuo, bensì in una unità sociale della grandezza, compattezza e forza di coscienza sociale che è propria della Chiesa Cattolica. Se si considera che la vita tanto multiforme di quest'ultima era tutta protesa verso l'aldilà, che essa si mise con decisione sulla via che conduce oltre questo mondo alla sfera del soprannaturale, e perciò fin da principio si segnò del sigillo dell'eterno, del sublime, del sovrumano, se si afferra tutto ciò, si comprende come venissero poste e date in tal modo tutte le condizioni preliminari della creatività stilistica più possente. Necessariamente qui doveva maturare uno stile sublime di vita religiosa, e in realtà questo è avvenuto. Se poi si considera la liturgia nel suo complesso e nei suoi elementi essenziali, non invero nella forma trascurata in cui talora si presenta, ma così come dovrebbe essere, in momenti felici si potrà percepire la meraviglia di uno stile addirittura grandioso. Si vedrà e sentirà come un mondo interiore di un'ampiezza e profondità immensa si è qui creato la sua espressione. Un'espressione così ricca di tale pienezza e insieme di tanta chiarezza e universalità, quale mai altrove si è offerta. Stile è pertanto, nel senso specifico della parola, chiaro chiaro discorso, movimento misurato, disposizione severamente elaborata dello spazio, degli oggetti, dei colori, dei suoni, derivazione di tutto, pensieri, parole, gesti, immagini, dalle forze elementari della vita spirituale, così da assicurare all'espressione ricchezza, varietà e insieme trasparenza. E la severità di questo stile è ancor più accentuata dal fatto che la liturgia della parola, in una lingua che è sottratta all'uso quotidiano ed è anzi classica. Da tutto ciò riesce evidente quale forza suggestiva possieda la forma liturgica d'espressione, come essa riesca per il fedele che la comprende una scuola di formazione religiosa e debba apparire anche all'esterno un prodotto culturale nobilissimo.